Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unico programma radiofonico che propone un modo radicalmente nuovo di fare cucina, ricerca, giurisprudenza, architettura, intrattenimento. Tutto 100% cruelty free. E se pensate che non sia possibile, rimanete all'ascolto. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. La notizia della settimana per noi è senza alcun dubbio la chiusura del circo statunitense Barnum, una notizia che ci riempie di gioia e speranza perché se chiude il più grande circo al mondo forse riusciremo tra non troppo tempo a vedere la fine dei circhi europei e italiani. The Greatest Show on Earth, così amava definirsi il Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus, una forma di intrattenimento amatissima negli Stati Uniti. Nella primavera 2016 avevamo dato la notizia della scelta di rinunciare agli elefanti fatta dal circo Barnum. I pachidermi esotici erano stati dismessi dopo una vita di esibizioni e destinati a una riserva in Florida, di proprietà però casualmente della stessa società del circo. La decisione era venuta a seguito, così era stato scritto nei comunicati, di una maggiore sensibilità animalista del pubblico e del divieto, emesso da decine di comuni americani, dell'uso dei bastoni con gancio usati per addestrare gli elefanti. Un divieto che rendeva impossibile per i circhi portare in tour questi animali. Senza sevizie, insomma, si è ammesso di non riuscire a gestire gli elefanti in sicurezza. A distanza di pochi mesi, l'annuncio della chiusura dello spettacolo. Anche senza elefanti, l'organizzazione circense più mastodontica e famosa del mondo, Barnum, che però dietro a una facciata di costumi sgargianti e acrobati che sfidano la morte, da sempre mercifica i corpi e la schiavitù, agevolata dall'ingenuità, dalla disinformazione e dall'ignoranza del pubblico pagante. Animali esotici, bestie feroci e rare, elefanti, tigri, leoni, ma anche gemelli siamesi, donne barbute, nani e giganti, deformità, difformità e libertà di esseri viventi venduti per pochi soldi, perversione e innocenza, sogno e incubo, un mondo molto ben rappresentato dal film Freaks del 1932 diretto da Todd Browning. Gli inizi del circo Barnum sono una tipica storia americana, una miscela di genio, malizia e impostura. Phineas Taylor Barnum nel 1835 comprò una vecchia schiava, Joyce Heth, e la mostrò al pubblico dicendo che aveva 160 anni. La balia di George Washington, signore e signori. E chi la spara più grossa, purtroppo, come sappiamo e come vediamo accadere ogni giorno, ottiene il massimo successo. Infatti il successo portò Barnum a incrementare i fenomeni da mettere in vendita, i suoi freaks, esseri umani deformi che spesso però erano solo finzioni, oppure animali prigionieri tenuti alla catena, la cui disperazione dietro le quinte però era reale e palpabile. La cosa che ci sembra importante e incoraggiante è che gli stessi proprietari e soci del circo Barnum che sta chiudendo hanno diramato un comunicato nel quale sostengono che il calo di pubblico e di gradimento del circo è dovuto non solo alla televisione, al moltiplicarsi delle proposte di intrattenimento, ma anche alle battaglie degli animalisti. Love is like a sin, my love. For the ones that feel it the most, look at her. like a flame. She will love you like a fly. Sembra curiosa la notizia dell'apertura di un ristorante vegano ad Alessandria, Piemonte, che però serve anche la carne. Bioritmo, questo è il nome del locale, propone un menù vegano, uno vegetariano e uno del territorio, con la carne piemontese, per non escludere nessuno, così dicono i gestori. In realtà è un locale onnivoro, ma alla rovescia, cioè mentre normalmente bisogna chiedere cosa c'è di vegano, da Bioritmo bisogna chiedere qual è il piatto non vegano del giorno. Una formula senz'altro migliorativa rispetto allo status quo, ma forse noi per ristorante vegano intendiamo qualcosa di più coraggioso, qualcosa di più coerente di così. E sicuramente coerente con le sue idee, i suoi valori etici è il tosco vegan chef Gabriele Palloni, che cura da anni la nostra rubrica di cucina Il Pasto Gentile. Oggi, in onore alla chiusura del circo Barnum, la ricetta della settimana sarà a tema circense. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Purtroppo capita spesso di parlare del circo da un punto di vista negativo, in relazione alla sofferenza degli animali che sono costretti a lavorarci, ma fortunatamente ci sono anche molti spettacoli in cui si esibiscono solo artisti umani, e le immagini di ricordi legati alla loro arte sono tutt'altro che negativi. E fra le acrobazie di spericolati circensi, immancabilmente sale il ricordo del profumo dei dolci e del popcorn. E quindi la ricetta che vi propongo è ispirata a questo, è dedicata a tutti quelli che hanno scelto di portare la propria arte in giro per il mondo senza per questo sfruttare e far soffrire altri esseri viventi. Ingredienti per 4 persone: per i popcorn con crema al mu sono 4 cucchiai di chicchi di mais, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, 100 g di zucchero di canna, 75 g di panna di soia, 50 g di latte di soia. In una padella fate scaldare l'olio e aggiungete i chicchi di mais. Coprite e con la fiamma sostenuta tenete la padella sospesa in modo che il calore arrivi alla padella senza bruciare i popcorn. Lasciate cuocere roteando lentamente e scuotendo di tanto in tanto, fino a quando smetteranno di scoppiettare. Togliete dal fuoco e salate. A parte, preparate la crema al mu. Polverizzate lo zucchero di canna con un mixer e mettetelo in una padella. Fatelo sciogliere sul fuoco senza mai mescolarlo e senza farlo bruciare. In un piccolo tegame fate scaldare la panna di soia con il latte. Quando lo zucchero si sarà sciolto, versate la panna e il latte caldi a filo, mescolando con un cucchiaio di legno. Fate sciogliere bene e lasciate sobbollire per qualche minuto. Togliete dal fuoco e lasciate riposare per 5-10 minuti. Quindi versate sui vostri popcorn. Hearts gonna stay, keeping up when they go. aver parlato tanto di circo, restiamo in tema di animali esotici, ma dal circo statunitense ci spostiamo in Kenya, un paese dove gli animali cosiddetti esotici vivono nel loro habitat naturale. È il Kenya lo scenario di Safari, un documentario provocatorio di forte impatto che ci fa conoscere da vicino gli amanti della cosiddetta caccia grossa. La recensione è a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Safari di Ulrich Seidel è un documentario senza voce fuori campo. Parlano i fatti e parlano i protagonisti. Tre coppie austriache e tedesche di età diverse in Africa per la caccia grossa. Sono i coniugi di mezza età che sono in Africa insieme al figlio e alla fidanzata di lui, anche loro cacciatori, che espongono il fulcro ideologico del safari contemporaneo, il quale in fondo è solo una lussuosa esperienza di consumo, ma qui viene rappresentato come un'esperienza umana, sul filo delle emozioni forti e del fare i conti col senso estremo della vita. La telecamera segue le coppie di cacciatori nella savana, accompagnate da un consulente esperto, di pelle bianca, che le guida verso gli animali. E lì consiglia a chi sparare, posiziona il treppiede e poi verifica col binocolo, una volta esploso il colpo, se l'animale è ferito, prossimo a morire dissanguato. A quel punto scatta il rito che sembra il vero scopo dell'intero safari, farsi fotografare, fucile di precisione in pugno, insieme all'animale morto, bisonte, gnu, zebra o giraffa che sia. L'ultimo atto è affidato a inservienti vari, di pelle nera, e consiste nel caricare il cadavere sul furgoncino e avviarlo allo scuoiamento. Il racconto si snoda così fra le scene di caccia e l'esposizione, da parte di ogni coppia, delle proprie ragioni e delle proprie esperienze. La ricerca del colpo perfetto, l'emozione per l'uccisione di un animale molto grande o molto raro, la convinzione di compiere un gesto lecito sia legalmente che moralmente, perché in fondo si tratta di pochi esemplari e quindi non c'è alcuna minaccia per la sopravvivenza delle varie specie. Le scene nella savana in verità sono piuttosto banali e assai poco movimentate. Il safari in riserva di caccia sembra una seduta al poligono di tiro più che un'avventura selvaggia e pericolosa nel cuore tenebroso dell'Africa nera. Ma questo è il safari, evidentemente. La coppia più anziana, due signori oltre settantenni e decisamente sovrappeso, sembrano quegli stanchi turisti che puoi trovare sul lago di Garda o sulle spiagge della Giamaica. E in ogni caso sono tutte persone normali, convinte di avere una passione emozionante e in fondo innocente da coltivare, pagando quello che c'è da pagare all'agenzia di viaggio. La parte più incisiva del documentario è quella più legata ai non cacciatori. La telecamera filma gli inservienti mentre scuoiano una zebra e una giraffa per tenere le pelli come trofei, mentre i cacciatori osservano un po' annoiati il loro duro e orribile lavoro in un lago di sangue e alle prese con corpi da straziare. Poi il regista riprende gli inservienti mentre mangiano morsi con foga belluina, pezzi di animali cotti alla meglio. In questo caso probabilmente gli inservienti recitano in una scena funzionale al racconto. Qualcuno poi è ripreso, immobile, alle pareti, dove sono appesi trofei di caccia, teste e corna di animali uccisi, ai quali gli umani, di pelle nera, sembrano aggiungersi come ulteriori trofei, ulteriori vittime delle battute di caccia. Il safari è dunque un miscuglio di nuovo consumismo, vecchio colonialismo, inquietante banalizzazione della violenza. Il proprietario del resort della riserva, ovviamente bianco, arriva a filosofeggiare sulla necessità di fare i conti con la morte, come se dovesse replicare a un'obiezione sul senso morale della sua azienda, un luogo di morte e però così ben inserito nell'economia del turismo globale. Il fatto che i protagonisti del film siano austriaci e tedeschi, originari cioè della regione d'Europa che è stata la culla del nazismo, non è di per sé importante, perché la caccia grossa è praticata da cacciatori danarosi di ogni dove, ma conferisce un'aura sinistra alla morale offerta da questo bel documentario e fa venire in mente una frase di Anna Maria Ortese, che diceva così: il nazismo non è affatto un momento storico, ma una dimensione immortale dell'uomo, e lo prova il fatto che, mancando le occasioni di esercitare il proprio potere su uomini inermi, lo si esercita a freddo sui figli inermi della natura. Safari, documentario di Ulrich Seidel. party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Mentre in Africa si spara alle giraffe in calzoncini corti, qui da noi il freddo continua a imperversare, specialmente a sud dove manca l'attrezzatura per difendersi dalla neve e questa crea dunque enormi disagi agli animali umani e non umani. La condizione degli allevatori in particolare è emblematica. Gli animali costretti in recinti e stalle infatti non sono in grado di provvedere in alcun modo a se stessi e nemmeno di mettersi in salvo se la stalla crolla sotto il peso della neve. Sui giornali è stata pubblicata nei giorni scorsi la lettera di Giuseppe Caponio, un allevatore di vacche da latte, che scrive così: «Siamo completamente isolati, in contrada Terranova tra Sant'Eramo e Altamura, siamo quindi in Puglia. Dal giorno 6 gennaio il camion che trasporta il latte non riesce ad arrivare in azienda e da 2 giorni buttiamo il latte perché non abbiamo più posto nei refrigeratori. Latte munto, da vacche ormai allo stremo delle forze, le scorte di mangime sono terminate e non è possibile far arrivare i camion del mangime. In casa abbiamo il riscaldamento per abbeverare le vacche, tiriamo l'acqua dai termosifoni. Parecchi capannoni sono crollati sotto l'enorme peso della neve e le vacche sono morte». Non sono bastati evidentemente i terremoti, specie quello dell'Emilia, nel quale sono morti centinaia di maiali. Non bastano i camion rivoltati nelle autostrade, dentro le cui lamiere contorte muoiono spesso decine e decine di animali trasportati vivi. E non bastano queste ennesime evidenze dell'insostenibilità dell'allevamento. Non basta se martedì 17 gennaio nella città del Vaticano si è festeggiata la festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, ma in realtà, per come è stata impostata la cerimonia, più che altro protettore degli allevatori. Transenne, box di legno, recinti, prigioni, paratie, tutto l'apparato concentrazionario ha fatto bella mostra di sé davanti alla città più santa della cristianità cattolica. Muli, asini, cavalli, oche, galline, anatre e mucche, con i loro versi e i loro lamenti definiti allegri dai giornalisti che ne hanno scritto. Voi allevatori, ha detto il cardinale Angelo Comastri, siete custodi di queste belle tradizioni, non perdetele. Il progresso, ha continuato così il cardinale, non sta nell'abbandonare queste belle tradizioni, ma nel recuperarle. Siete la parte più bella e forse anche la più onesta della nostra Italia. Per riprenderci da notizie simili serve qualcosa di speciale, qualcosa che ci restituisca fiducia nel futuro, qualcosa come la seconda puntata di Speriamo che sia vegan, la nostra rubrica dedicata ai libri per i bambini che amano gli animali, ideata e condotta dalla nostra Roberta Marino assieme ad Agata, la nostra più giovane e affezionata ascoltatrice. Agata, tu mi capisci, Agata? Speriamo che sia vegan. Letture per bambini che amano gli animali. La favola dell'oca è bella ma è poca. Vuoi che te la conti? Non bisogna mai dirsi, perché finisce lì per lì. Geltrude senza piume è la storia di una scoperta. Quella che dietro alla realizzazione di molti oggetti utilizzati quotidianamente si nascondono ben celati, violenza e sofferenza di animali. Ma è anche la storia di un'amicizia, quella che nascerà tra Alice, la bimba protagonista del racconto di Sandra Dema, e Geltrude, l'oca che da semplice pupazzo privo di vita diventerà un animale in carne e ossa, con un cuore piccolo piccolo, ma senza piume. Già, perché le piume di Geltrude e di altre sue sventurate compagne sono servite per realizzare cuscini, proprio come quello che Alice ha ricevuto in regalo poco tempo fa. qualche settimana fa la mamma mi ha comprato un cuscino nuovo, grande grande, ciccio e morbido. Mi ha detto che è così morbido perché è pieno di piume d'oca. Come le piume della mia Geltrude? No, Alice, Geltrude è un'oca di stoffa. Invece le piume del tuo cuscino sono vere. Ho abbracciato Geltrude e sono diventata triste, molto triste. Alice, non possiamo farci nulla. Sì, invece, mamma, non voglio più usare cose fatte con le piume. Anzi, perché non adottiamo un'oca come abbiamo fatto con il mio cagnolino? Durante la notte Alice fa un sogno. Il suo pupazzo si era trasformato in un'oca vera, chiusa in un recinto, e che voleva scappare, ma non poteva più volare. Le sue ali erano completamente prive di piume. Così il sogno si trasforma in un incubo e i pensieri riaffiorano nella mente di Alice, che si sveglia in lacrime, disperata. Dopo qualche giorno la mamma mi ha detto: oggi andiamo a fare un picnic speciale. Sei contenta, Alice? Che bello, mi piace tanto il picnic. Portiamo i panini e il succo? Un picnic speciale. Accompagnate dal pupazzo Geltrude e dal cane Birba, Alice e la mamma attraversano il bosco in bicicletta e poi si fermano in una piccola radura a mangiare. Andavano a bere alla fonte. Terminato il pranzo, i miei genitori mi hanno dato la mano e insieme siamo andati a visitare un grande casolare. Mamma, ma questa è la casa delle oche vere! Sì, Alice, qui puoi scegliere l'oca da salvare. Ho guardato tutte le oche, osservandole con attenzione una ad una. Poi i miei occhi si sono posati su un'oca senza piume. Quella! Voglio quella! Quella è la vera Geltrude! Mi sono seduta a terra e mi è venuta in braccio. La tenevo stretta a me e le ho promesso: ti farò ricrescere le piume e nessuno te le toglierà più. Un'oca andava a bere alla corte del re. Un'oca, due oche, tre oche. Geltrude senza piume, per bambini dai 4 ai 7 anni, di Sandra Dema, illustrazioni di Valeria Castellani, Terra Nuova Edizioni, 32 pagine, 12 euro. Tre occhi andavano a bere alla corte del re. Un'oca, due occhi, tre occhi, free spirit, he's naked in the world spinning. siamo in chiusura. Ricordiamo che tutti i nostri contenuti, lo streaming e il podcast sono su www.restiamoanimali.it. Ricordiamo che siamo anche su Facebook e su Twitter e che le voci e le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa trasmissione sono quelle di Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Agata, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.